Siamo i cattivi maestri, spesso i giornali parlano di noi, non in termini molto lusinghieri, e oggi è una giornata speciale perché è il compleanno di Vincenzo! Auguri a Vincenzo! E proseguiamo con una canzone d'amore che dedichiamo a tutte le donne del mondo. In auto grill, la mia pressione è massima. sorridi e intanto non mi ascolti più. Alzi il volume alla TV. Canzone nuovissima, scritta strisciando sui gomiti, è come un pugno allo stomaco, perché parla di te, di come guidi la macchina e ti giri i capelli, frenetica, di cosa mangi domenica e che sbadigli se tu ti annoi. Ma tu sorridi e intanto non mi ascolti più. Alzi il volume alla TV. Mi sento triste in fondo, hai ragione tu. Che senso ha buttarsi giù? Io credo che questa sera un applauso speciale se lo merita la nostra guest star, il mitico Franz, tanto bello, tanto bravo, un applauso. Allora, giusto due parole perché questa è una festa che abbiamo organizzato. Non si sente? Allora, questa è una festa che abbiamo organizzato anche con molta fatica, rimettendo insieme tantissimi compagni e compagne che nel corso degli anni, di tanti anni, sono passati da scienze politiche e hanno partecipato in un modo o nell'altro all'attività politica dell'occupazione nel 90, delle altre occupazioni che ci sono state dopo e poi del collettivo politico universitario. Quindi è stata per me una grandissima occasione per rivedere tante persone che non vedevo da moltissimo tempo, credo che questo sentimento sia condiviso. È una festa anche per lanciare il lavoro che abbiamo fatto di archivio rispetto a questi anni di militanza politica, anni sicuramente più gioiosi e più ricchi di quelli che stiamo vivendo attualmente. Il nostro intento ovviamente non è quello di agevolare gli storici, ma di dare degli spunti e del materiale per chi in futuro vorrà riprendere un percorso di lotta, e qui finisco. E sono anche molto contento che alla nostra festa suoni il gruppo dei Cattivi Maestri, che a partire dal nome mi sembra adattissimo alla situazione e a questo posto, perché questo posto è il nostro archivio, è dedicato a Primo Moroni, che per noi è stato uno dei grandi cattivi maestri che abbiamo incontrato nella nostra vita politica. E Grazie Alberto. Grazie. E allora, in difesa delle occupazioni, di tutte le occupazioni come spazio di libertà. Oh. Altera l'Asia. Genova, Ustica, Piazza Fontana, mano fascista, regia democristiana. Genova, Ustica, Piazza Fontana, mano fascista, regia democristiana. Politicamente inopportuno il nome Bandiera l'Asia, poche foto smarrite in rete restano alla memoria dei suoi vent'anni gettati al piombo per un fuoco di paglia della pietà che non c'è stata in vita Bandiera l'Asia. Storicamente condannato verso Bandiera l'Asia, bandiere rosse bruciate al rogo della classe operaia, le mani sporche di sangue fresco il canto della mitraglia. Ingiustificato, assente, amico Bandiera l'Asia, i buoni propositi, la tua carne da macello, e questo per non dire anche di peggio. La mia generazione, ladri e figli di puttana, pronti a vendersi l'anima per un pacchetto di Diana. Oggi il progresso cos'è? Stupranamento di culattori, come i fascisti con Berlusconi, in mezzo trovano te, perché l'errore qual è? Girare a volte tra le canzoni, avere troppe preoccupazioni e dire sempre di sì. Il tuo parole bastato nella tua Stalingrado, esserci sia l'Asia, vale te all'Asia. La giustizia di Stato come Ponzio Pirato, che bella farsa l'Asia, vale te all'Asia. La rivoluzione, e la rivoluzione, e la rivoluzione trionferà. Scendo giù in cantina, mi lavo con la benza pazienza, se piove tanto io non esco, mi chiudo dentro il cesso, mi resto il mio birillo in mano, poi prendo la mia medicina, tristezza vasellina in dosi da cavallo e spallo, quindi che fai, tu lo sai, tu non lo devi dire. Devo pagare gli alimenti, amici ed apparenti che vogliono contratti in mano. Corto di buoni sentimenti, mi aiuto con i denti prendendoti sopra il divano. Vai, chiedo aiuto alla fortuna, chiamando la puttana, grappandomi alla sua sottana. Se riesco a entrare dalle spese, mi ammazzo a fine mese, bruciami con il pentano. Quello che fai tu lo sai, non lo devi dire mai, che poi ti pentirai. Quello che fai tu lo sai, non lo devi dire mai, mai, mai, mai, mai. Quello che fai tu lo sai, non lo devi dire mai, che poi ti pentirai. Quello che fai tu lo sai, tu non lo devi dire. Dormi pure paparino. Se tu chiudi i tuoi occhietti, noi ci addormentiamo secchi. Tu fai sogni d'oro mentre noi cantiamo in coro. Quello che fai tu lo sai, non lo devi dire mai, che poi ti pentirai. Quello che fai inconvenienti tecnici, sono accordato. Dopo che dato, adesso va per l'artista. vado in bici e bevo spritz, conto buchi sui miei gol. Meno male che si scioglie il paronar. Ecco il terrorista, convertito al dio nazi vegano, portoghese in tre. Classico richiesto anche da prima, mia suocera. Sì. Siamo caldi con mia suocera. Allo? Dai, tutti qua per suocera, nemmeno il tempo la logora, bizzarra, pazza, isterica, delle svetture lei gondola. Il mio nemico, mia suocera, a volte penso di ucciderla, la faccenda si complica, cosa faccio domenica? Fuori dalla mia casa, fuori dalla mia vita, fuori dal mio frigo. Fuori dalla mia casa, fuori dalla mia vita, fuori dal mio frigo. Fuori dalla mia casa, fuori dalla mia vita, fuori dal mio frigo. Suocera, suocera, suocera. voglio bene a mia suocera, però mi riesco alla metrica. Se una rima mi affascina, io devo metterla in pratica. Una signora fantastica, altro che pazza isterica, è buona come una tortora e mi cucina la fregola. Grazie, grazie, io vorrei ringraziare ancora Alberto di averci invitato a questa serata meravigliosa, Tommaso Pelle per il sostegno che ci hanno dato, poi c'è il nostro angelo custode, non tutti gli angeli hanno alette bianche, alcuni vestono di nero, il nostro Joe. Questa canzone la dedichiamo ai nostri amici psiconauti e in particolare alla nostra musa pazza, il nostro amatissimo Mitch. È anche previsto che voi facciate un piccolo coretto che è molto semplice, fa e oh e oh e oh. Sempre più rari momenti di lucidità, vedo cavalli con occhi di margherita, brucare nei campi sportivi di erba sintetica, calcare palline da tennis, regalare un mezzo sorriso a un uomo distinto che decide di andare in America, o quantomeno aggiornare il tuo CV con tutte le foto del cazzo fatte domenica e cancellata il lunedì. Ma un pesce rosso vive in una boccia a casa mia, mi tiene tanta compagnia. Disco di Giorgio! Hey, oh! Per fare ginnastica, prova a metterti nei panni delle calamite, attraversate da vostri flussi di polarità, e di questo come noi, come la nostra immobilità. Una voce in testa mi dice non andare di fretta, tu non lo sai, tanti ne muoiono così, addormentati in preda all'incertezza e con i piedi umidi. Mi parla con le bolle, ne capisce di poesia il pesce rosso a casa mia. E allora muovi insieme a me le mani e i piedi in questo vortice, tra i giovani e i vecchi handicappati digitali, ballare a disco disagio. Alla sera che ti reggi in piedi e tieni alti gomiti, il mondo cade a pezzi, rimane e non ci arrenderemo mai. Ballare a disco disagio, ballare a disco disagio, ballare a disco disagio con me. Povero pesce rosso, adesso non mi parli più, galleggi immobile nell'acqua verde, Uno scherzo del destino mi ha portato via da te e ora nuoti nei tubi dello scarico diretto verso il paradiso ittico. E allora muovi insieme a me le mani e i piedi in questo vortice tra i giovani e i vecchi handicappati digitali. Parla di scorisaggio e parla sino a che ti reggi in piedi, tieni a ti rompi. Il mondo cade a pezzi ma noi non ci arrenderemo mai. Parla di scorisaggio, parla di scorisaggio, parla di scorisaggio con me. Fuitina d'amore, spiega chi è Mene, il chitarrista che viene di solito con noi, il nostro grande, nostro grande quello Mene. Vero adesso, visto che abbiamo nelle nostre fila, conoscerete sicuramente l'avvocato Straini, qua molti lo conoscono, parliamo di temi di politica internazionale, cerchiamo di assumere un tono sufficientemente serio. tecnicismo. Questa dov'è la Gaia Mezzopera che avrebbe dovuto cantare? Dov'è? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sulla riva del Mar Nero, dal mio diretto siberiano, io voglio bere vodka e mangiare pane scuro, una K-47 per farvi il culo, grande popolo di Madre Russia, grande Russia, soldati della Madre Rossa, che si scala la fossa, parte il cuore della Madre Russia, scorre il sangue della Madre Russia, è partito il voto alla rovescia della bomba atomica di Madre Russia. Daremo il benvenuto allo zar, come suoli fare un nuovo sole dell'avvenire, vola due droni dello sulla vetta degli Urali e nella steppa andare a caccia con il mio fucile nascosto sotto vento, seguo la preda senza fare rumore, sopra un grado di ghiaccio freddo, freddo come il mio cuore, grande popolo di Madre Russia, grandi Madre Russia, con te figlie senza più famiglia, alimentano l'industria, geli dell'inferno della Madre Russia, duro come un ferro della Madre Russia, quando infuria la tempesta, chiude il nido nel ventre di una Madre Russia. Scorda come l'acqua dalle voci del Volga, carica la piena sulla sponda del Don. Grazie, grazie a tutti gli amici che vedo qua, che sono arrivati, a cui vogliamo tantissimo bene. Cioè, tutto questo senza una corda, eh? Cioè tutto questo, no? Bisogna essere più forti delle avversità, perché le avversità sono tante. Bene, adesso invece parliamo di alimentazione. Alimentazione. Un tema legato. Ma dai, grazie per la domanda. Faccio io? Sì. me li seguono da tutti i canali. Quante stupide mode alimentari, propaganda per certi giornali, e dai dottori alla televisione, è una generazione senza speranza che ripetono sempre cose così banali. C'è più fenomeni nazionali, c'è te signore e ti dicono papi, sai che non mi va di andare a scuola domani, quanti calci in culo un uomo deve tirare e quanti piacere deve schivare per difendere la posizione. Navighiamo a vista tra tempeste ormonali, c'è una bruma che sulla strada risale, la tappa gira, la pressione ci fa tanto male, tanto male. Della propolis, ditegli che è inutile, sono cantanti tecnici. Thank you. già quello che vuole, basta che si muove, basta che si muove, basta che si muove. Come faranno i cannibali a dare i baci alla francese? Della buonanotte preferite dalle mie figlie parlano di cannibalismo. Però una canzone d'amore, eh? Una canzone che io dedico, l'ho già detta a tutte le donne del mondo, ma a una in particolare, e non c'è neanche bisogno di fare il suo nome. Fare a pezzi il nostro amore, disegnarlo sopra un foglio e ritagliarlo con le mani, farne pezzi piccoli da mettere sotto il cuscino, da regalare ai bardoli come le fate dei dentini, e alla fine del giorno cosa resterà? Quando il cielo si accende dalla rabbia, sono un filo di male nella testa, ed un'ora d'amore che ci passerà. Thank you. lasci del nostro amore. Ritroveremo le parole per la via, seguendo il segno dei nostri passi. Lavati dalla pioggia e resi ancora più sottili del filo che ci trattiene, del filo che ci tiene insieme. E alla fine del giorno cosa resterà di così fantastico? Quando il cielo si accende dalla rabbia e tu, chiudi le mani sopra la mia testa e non le lasci più. Grazie, grazie ragazzi del Conchetta di averci ospitato in questo posto meraviglioso. Ah, a questo punto, sì, allora. Allora, cerchiamo di fare anche un po' del futurismo, con la musica e con le parole. A modo nostro, non vi spaventate. Io vado dritto in cantina, la mia mamma prepara una minestrina, una minestra saporita. La gallina è la mia bestia preferita, una gallina, una gallina. Figlio della mia malattia, io gravito nel cielo, gli spirali di follia, io mi sono chiuso dentro, concettate la chiave, buttate la via, io esibisco al mondo la mia patente da demente, la diagnosi consente, prendere a punti le cose, di guidare la gente. Ciotola calda dove io ammollo le dita, le mie luride dita, la gallina tra tutte le bestie vendute è la mia preferita, una gallina, Onetta! Una gallina, una gallina, Onetta! Una gallina, Onetta! Amici, stiamo arrivando alla fine del nostro viaggio. Lo possiamo ricominciare varie volte. Ecco, questa è una canzone che io mi sento di dedicare ai miei amici di Gorla Profonda. Piccolo operaio specializzato, faceva i tubi alla Breda. Tu piccola turnista notte e giorno, battevi chiodi in Pirelli. Ci siamo visti un giorno un picchettaggio, tu tenevi la bandiera. Ci siamo visti un giorno un picchettaggio ed eri bella come una ringhiera. tra i lacrimogeni e le manganellate, ho visto che tu mi guardavi e quando i puri smani ci ha caricato senza dire niente mai seguito. Io te soli nel reparto BL, i finestroni sembrava stelle, io te soli nel reparto BL, uniti come la miele sagomate. Era 69 un pugno caldo e ci sembrava la rivoluzione, ma non era che la vigilia di trovare un altro padrone. Avevamo il mutuo da pagare e le vacanze con i tuoi al mare, la 127 a riparare sognando una regata familiare, legati da una catena di montaggio come dei bulloni chiusi dentro il reparto di stoccaggio. Bonetti e Ciputi ci resero sposi, uniti come la miele sagomate, uniti come la miele sagomate. Questo era per il nostro pubblico più antico. Spasimi, la vita va mettete le gambe. Fai così. Fai così. Fai così. Fai così. A ballare la vera musica. Grazie ragazzi, grazie ancora a tutti. Volevo ringraziare io i cattivi maestri che hanno suonato stasera. Voi tutti che siete venuti, il centro, tutto che si è dato da fare perché questa cosa potesse funzionare. Chi era i suoni sopra? Nicola alle immagini. Chi era al bar? Chi ha sistemato fuori? Chi pulirà domani mattina? È stata una bella serata. E allora queste cose e prosegue. La serata prosegue con della musica dentro e divertitevi e divertiamoci tutti. Ciao e grazie ancora.